Liberi Dentro e Duradio, il programma di intrattenimento e cultura che fa ponte tra carcere e città. Andrea si è perso, si è perso, si è perso e non sa tornare. Venerdì 5 marzo, buongiorno e bentornati di nuovo a tutte e tutti a Liberi Dentro e Duradio. Io sono sempre Caterina, qui con me ci sono Ignazio De Francesco da Torino, buongiorno. Buongiorno, buongiorno sempre a tutte e tutti, ma in particolare oggi volevo dire a una persona che mi ha scritto raccontandomi, persona momentaneamente detenuta, come inizia la sua giornata, in cui si mescolano il dolore, la nostalgia, non si può fare poesia sul carcere, ma anche il rito del caffè. Iniziare con un buon caffè, accendere la radio. E quindi se ci ascolta in questo momento, vorrei dire proprio buongiorno e spero che lo faccia ascoltandoci e sorbendo un buon caffè come quelli di cui ci racconta anche Pietro Floridia con le sue bellissime puntate in onda nei laboratori. A cui do il buongiorno anche a te, Pietro Floridia. Buongiorno a voi e anch'io mi associo a questo inno per il caffè e per iniziare bene la giornata. Ma vi faccio una domanda, voi lo sapevate che si fa il caffè Galeotto al carcere di Rebibbia? Perché anche io voglio dedicare qualcosa a questa persona che ci ascolta. A Roma, al carcere di Rebibbia, Mauro Pellegrini ha fondato una torrefazione all'interno del carcere in cui lavorano i detenuti e fanno il caffè. E quindi grazie ai fondi di proventi esclusivamente privati è nata la torrefazione che ad oggi ha 15 dipendenti. Quindi in concessione hanno avuto uno spazio dove si tosta, si macina il caffè, si producono le cialde e poi dall'altra parte si fa la manutenzione delle macchine anche per fare il caffè e poi c'è anche un piccolo negozio aperto al pubblico dove vengono venduti i prodotti del caffè Galeotto e che si trova all'ingresso del nuovo complesso della casa circondariale. E lui dice una cosa bella, anzi non la dice lui ma la dice Ferdinando, che è una persona che lavora in questa torrefazione. Dice: in carcere si può cambiare, ma si deve seguire un percorso. Il carcere deve servire a capire dove hai sbagliato, devi viverlo, non dormire tutto il giorno per farti passare il tempo. Devi fare un percorso che ti porti a non commettere più gli stessi errori. Lavorare è fondamentale per intraprendere questo processo. Quindi ringraziamo anche Ferdinando per questa testimonianza. E adesso io do la parola a te, Ignazio. Sì. Abbiamo un articolo molto importante che è comparso alla fine di gennaio su Orient Le Jour, che è un grande giornale libanese in lingua francese, di un grande autore, un accademico, Joseph Maila, La corruzione au Liban, les racines du mal, la corruzione in Libano, le radici del male. Ed è un testo che ci deve far molto pensare. Il Libano era il fiore del Medio Oriente, chi l'ha conosciuto negli anni prima della guerra civile, è una cosa meravigliosa. Nella storia biblica Mosè non entra in Libano, dice a Dio nella Bibbia: fammi vedere il Libano. No, non glielo fa vedere. Allora i rabbini commentano, dice, perché se le avesse fatto vedere il Libano non sarebbe più andato in Palestina, talmente bello, molto diverso, ci sono le montagne, sicuramente Pietro ci sarà stato, ci sono le montagne, il mare, i boschi, una cosa spettacolare, ma sta affondando nella crisi economica devastante. E questa crisi è generata, alimentata in gran parte dalla corruzione, e lui analizza impietosamente la corruzione, il sistema delle clientele. In arabo si dice il wasta, anche sempre, se hai il wasta fai tutto, cioè il punto di mezzo per ottenere qualcosa non è che è necessario che sia lecito, che sia legale, che sia possibile, bisogna avere la giusta raccomandazione. E quindi è cosa che conosciamo molto bene in Italia. E poi il disprezzo della cosa pubblica, per cui è diventato quasi un'abitudine rubare dalle casse dello Stato. E lui finisce così, un punto che ci deve però far pensare, perché parliamo male del Presidente, parliamo male dei parlamentari, parliamo male dei ministri, tutto giusto, però lui dice così, che c'è il terzo punto della crisi libanese, tocca la cultura civica. La corruzione, prima di essere una pratica, una mentalità, è una maniera di immaginare lo Stato. e il modo di rappresentarlo essenzialmente come inesistente. E contro questa situazione di spirito che bisogna lottare, e in fondo noi lo vediamo anche nelle mafie. Lo Stato non esiste, per questo io posso fare i comodi miei. Quindi è una cosa in cui, nel momento in cui noi condanniamo la corruzione, dobbiamo chiederci: ma quanto io contribuisco a mantenere in piedi questo sistema? Quindi un testo mi sembra molto importante, questo di Orian Lajoux. E allora, Ignazio, siccome abbiamo dedicato il caffè a questa persona che ti ha scritto, vogliamo dedicare un brano musicale a lui, ma anche a chi ci ascolta tra la città e il carcere? Sì, allora niente di meglio con Aisha Erdogan per chiudere la settimana, questa grande cantante libanese che, lo devo ricordare, è stata insignita nel 2016 del premio Mukafa al-Watania, cioè Ordine del Merito Nazionale, dal re Mohammed VI, e che ci canta Li Habibon, io ho un amato. Eccoci sulle note di Aisha Rodouane, io ho un amato. Ignazio, con te chiudiamo allora l'ultimo passaggio di questo galateo arabo che ci ha accompagnato tutta la settimana. Abbiamo parlato del fatto che la gelosia fa male alla salute, e però adesso l'ultimo passaggio ce lo illustri tu. Sì, l'ultimo passaggio è, in fondo mi ha fatto venire in mente quello che si diceva con i famosi padri del deserto, no? Siamo del IV secolo, no? In cui i fratelli andavano dall'Abba, dal padre, e gli dicevano: Abba, il pensiero mi dice, in qualche modo oggettivavano il proprio pensiero. E questo serviva a ragionare sui propri moti interiori, per esempio sulla gelosia. E quindi come ragiono con il mio compagno, la mia compagna? Hai detto questo, hai fatto questo, cosa ne pensi? Ma quel giorno... Quindi senza buttargli subito addosso l'accusa, il laum, si dice in arabo, l'accusa. Così lui dice, attawasul ma al-mashaer bi lugha ma'kula, cioè tawassul, avere una connection, avere un dialogo con i propri sentimenti con una lingua che sia razionale e che sappia distinguere, perché noi sappiamo che la gelosia è una cosa che si fonda: hai visto quello, c'è stato uno sguardo, hai detto, hai pensato, cioè è una cosa che ti monta dentro e non la controlli più. Allora, come devi parlare con l'altro, il hewar, lugato il hewar, del dialogo, ma anche il hewar manafsi, che parlare anche con te stesso e eventualmente con chi ti può aiutare. E magari, chissà, riporteremo questo problema nel nostro rapporto con Maria Inglese. Cosa ne dici? Direi proprio di sì. Colgo all'amo proprio. Adesso Pietro, io invece volevo chiedere a te, siccome abbiamo parlato di meticciato, abbiamo parlato di incontro con l'altro, allora parliamo di prospettive. È stato veramente un anno duro, ci siamo fermati, si sono fermate le attività che portano proprio la bellezza, come appunto il cinema, il teatro, lo spettacolo. Cosa ti immagini di riportare tu alla Dozza? Allora, nel rispondere parto anch'io da un po' lontano e parto dal Libano. Nella nostra prima puntata di Rimedi per la Distanza, il laboratorio appunto che stiamo facendo a distanza, ahimè, per la Dozza, siamo partiti da un testo di Mahmoud Darwish, grande poeta palestinese, che nell'82 era profugo in Libano e, a fronte del bombardamento dal mare, in quel caso, di Israele, per sentirsi uomo e per iniziare la giornata vuole farsi il caffè e quindi è disposto ad attraversare un corridoio crivellato di colpi, di proiettili per arrivare in cucina e prepararsi il caffè perché quell'aroma, quella preparazione con le proprie mani lo porta a ricreare la terra dalla quale è costretto a stare lontano e quindi tutta la cultura della sua terra la trova nelle parole e nella preparazione del caffè. Allora a noi ci è sembrato bello incominciare da questa progettualità chiedendo di scrivere i propri caffè, i propri ricordi, le proprie sensazioni, i propri incontri fatti bevendo un caffè, i propri luoghi in cui si è preso un caffè, le proprie ricette. Non solo quello, ma anche di disegnare, di fare piccoli collage con materiali poveri. Nelle nostre trasmissioni, le nostre scenografe insegnano, magari con la polvere di caffè, a fare dei collage. Ecco, il nostro sogno è tornare alla Dozza e creare una storia, uno spettacolo, ma anche un libro, cioè fare con le mani la carta, fare con le mani come appunto sappiamo fare, cucire le coste del libro e fare un libro che raccolga queste esperienze nelle quali anche una cosa semplice come farsi il caffè può diventare fonte di grande gioia, di grande profondità, di grande esperienza, perché in questi momenti in cui appunto siamo bloccati, dobbiamo attraverso l'arte, attraverso l'immaginazione, attraverso i ricordi, attraverso il desiderio, sapere trasformare anche cose umili come una polvere scura in esperienze e condividerle in maniera tale che non restino dentro l'intimo, dentro di noi, o che diventino peggio fantasmi, ma diventino qualcosa appunto che si tocca. A proposito di oggettivizzare il pensiero, per noi è molto importante dare un oggetto e costruirlo insieme e rendere la bellezza che abbiamo dentro ad appannaggio di tutti. Ecco, questo è il nostro sogno e il nostro progetto. E se ti chiedessi proprio in 2 secondi di dare un augurio a chi ti sta ascoltando in questo momento, perché sono in tanti, L'augurio è, ma io mi auguro che siano nostri compagni di percorso, mi auguro quindi che creiamo insieme con tutte queste difficoltà, però noi non vediamo l'ora, anche nella distanza adesso, di ricevere piccole lettere, piccoli disegni e farli diventare un'opera d'arte. Il mio augurio è di creare insieme, ecco. Bene, grazie mille, grazie anche per questa compagnia di questa settimana e ora un brano lo lancio io, siccome abbiamo parlato di caffè, Pino Daniele, Natazzulella e caffè. Grazie, alla prossima. Grazie, grazie a voi. E mai niente ci fanno sapere, noi ci puzzamme e fammo sanno tutto quanto, e invece ci aiuta, ci buffano i caffè. Natazzule, le caffè, che sigaretta coppa per non pare, che stanno chi ne sbaglia, fanno solo un broglio, se lisciano, se vattono, se pigliano il caffè. E noi passamme e vai, noi non potremmo su. Rieccoci, bentornati su Liberi Dentro. Dopo la pausa musicale siamo con la nostra consuetudinaria ospite, Maria Inglese. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, buongiorno Caterina. Maria, oggi parliamo di un evento critico, nel senso vero e proprio. Nel senso che tutti i giorni, lo sappiamo, nelle carceri italiane succedono una dietro l'altra quelli che sono considerati eventi critici. quindi atti di autolesionismo, aggressioni anche al personale penitenziario o anche addirittura evasioni. E generalmente si riconducono questi eventi a ovviamente quelle che conosciamo le cause del sovraffollamento, oppure la stessa carenza del personale, o anche il fatto comunque di radunare in un solo luogo di ristrettezza tante culture, provenienze, storie differenti di persone. Questo può essere una specie di pentola a pressione, ma non sono soltanto queste, cioè no, non possiamo guardare solo a questi aspetti, perché l'evento critico, leggo sul sito della Croce Rossa Italiana, è qualcosa di veramente personale, cioè non è neanche quantificabile né come danni né come ciò che può provocare, non può essere misurato, insomma, a livello generale, ma riguarda nella soggettività la singola persona. Quindi intanto con te volevo capire che cos'è l'evento critico e perché si verifica e soprattutto, siccome stiamo parlando tra la città e il carcere, ricordiamo che l'evento critico riguarda tutti, tutti, non siamo esenti nessuno da quello che può capitare nella nostra testa, insomma. Grazie Caterina. Allora, hai già detto alcune cose importanti perché effettivamente il DAP registra questi fenomeni degli eventi critici e diciamo che negli ultimi anni sono diventati effettivamente l'allarme principale degli istituti penitenziari. Come hai detto tu, gli eventi critici sono tutte quelle forme di protesta, aggressioni tra detenuti o tra detenuti e il personale, proteste, scioperi delle terapie, scioperi della fame, sciopero delle visite mediche, ad esempio, più gli gesti autolesivi, i tentati suicidi, gli abusi di psicofarmaci e anche le intossicazioni che ci possono essere appunto. Allora, come mai avvengono questi eventi critici? Tu hai giustamente detto una cosa fondamentale, un evento critico è anche un'esperienza soggettiva e in carcere questo è maggiormente vero perché l'evento critico in un certo senso determina anche il destino della persona. Una volta che hai fatto un evento critico, sei un po' bollato, comunque individuato come una persona problematica da attenzionare, però da attenzionare in termini di sicurezza, che non è, diciamo, la nostra primaria preoccupazione. Parlo di noi operatori della cura. Però l'evento critico è un'esperienza soggettiva, è un punto di caduta, un punto di rottura e attraverso un agito. Perché questo è un evento critico, si cerca di dare visibilità e voce a una propria esperienza di sofferenza. Chi sono i protagonisti di eventi critici? Effettivamente, come hai detto tu, sono per lo più persone straniere, ragazzi giovani e persone con una serie di problematiche sanitarie, sociali, familiari, abbandoni da parte del contesto di vita, persone che non hanno gli strumenti per inserirsi anche in un percorso trattamentale adeguato. Questa è un'altra co considerazione che va fatta. Gli eventi critici aumentano in tutte quelle sezioni dove c'è una vivibilità minore e una vivibilità minore o peggiore è legata anche alle attività che vengono proposte dalla scuola fino al lavoro e alle attività culturali. Quindi gli eventi critici appartengono proprio alle persone che sono gli invisibili tra gli invisibili, pazienti, magari tossicodipendenti, stranieri, giovani con scarse risorse. Ecco, questo è quello. Come li affrontiamo gli eventi critici? L'attenzione è principalmente quello di registrare il fenomeno, però ecco, andrebbe sensibilizzato veramente la comunità di vita del carcere, quindi prima di tutto i detenuti stessi, di saper riconoscere gli eventi critici e essere di supporto agli altri, e la polizia penitenziaria, cioè tutte quelle persone che vengono a contatto con il detenuto. Grazie Maria, ritorneremo con te di nuovo sempre sugli eventi critici dopo la pausa musicale. Cosa lanciamo? Allora, oggi lanciamo Manu Chao, clandestino. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana illegal. E rieccoci sulle note di Manu Chao, clandestino. Con Maria stiamo parlando degli eventi critici. Abbiamo detto che riguardano tutti, non solo dentro il carcere ma anche fuori, perché sono eventi che riguardano la nostra soggettività e, come dicevo prima, non sono misurabili, tant'è vero che non esiste una scala dei danni materiali o quantificabili in qualche modo. Ha una sua portata l'evento critico per ogni tipologia di persone. Allora io te volevo chiedere innanzitutto cosa scatta nella persona, nella testa, cioè cosa succede quando si verifica l'evento critico, che pensieri facciamo? E poi, in seconda battuta, volevo chiederti come noi possiamo fare attenzione alle persone intorno a noi per prevenire l'evento critico. Allora, ti posso dire che avendo incontrato in carcere tante persone subito dopo l'evento critico, cioè quindi facendo una sorta di anamnesi post-evento critico, le caratteristiche che un po' ti dicevo prima e che forse possiamo mettere più a fuoco sono appunto questo di essere persone che arrivano a compiere quei gesti quando non vedono alternative nella loro espressione di un disagio, di una sofferenza, di una richiesta. Semplicemente a volte l'evento critico scatta perché non si sa chiedere in modo adeguato oppure non si viene ascoltato. Quindi ci si concentra su una cosa sola, sì, sostanzialmente. Esattamente, diventa come dicevi tu, è proprio il gesto è questo, una visione monoculare, una visione ad imbuto, diventa solo quella la soluzione. Questo succede anche a noi, quando siamo effettivamente sotto pressione o per tanto tempo in una condizione di stress che può diventare uno stress cronico. A quel punto la nostra visione delle alternative diventa impossibile e vediamo un'unica strada ed esiste uno stato di tensione tale che a volte il gesto anche compiuto sul proprio corpo, penso ad esempio ai tagli, ai gesti autolesivi, diventa quasi una riduzione della tensione, uno scaricarsi. Ecco, noi dobbiamo cercare di rendere la persona capace di trasformare quel disagio non in un gesto, ma in un pensiero e quindi in una parola. Ed è per questo che noi operatori siamo lì. E quindi non solo come operatori, ma come persone che si curano l'uno dell'altro, che si prendono cura, il take care. Esatto. Come possiamo prevenire l'evento critico in qualcuno a cui che sta intorno a noi, il nostro concellino, ma anche il nostro vicino di casa, sì, il convivente? Come possiamo fare? Esattamente questo, a prestare attenzione, prestare del tempo, prestare l'ascolto, una parola che appunto in carcere è poco praticata, ma forse anche nella comunità esterna, cioè prestare ascolto e dare la sensazione di essere a disposizione di questo ascolto, perché a volte anche appunto il dialogo, la conversazione, la comunicazione può diventare un modo per trasformare un disagio in qualcosa di verbalizzabile, tant'è che molte iniziative in carcere adesso cercano di sensibilizzare proprio i detenuti tra di loro, quindi tutta la formazione che avviene sui peer support, ma lo stesso anche tra gli agenti, che possano essere capaci di intercettare quel disagio non espresso verbalmente, ma non parlo solo del detenuto, ma anche magari del collega di lavoro. Certo, certo. Grazie Maria, ritorneremo con te su questi argomenti la prossima settimana e adesso un brano lo lancio io. E proprio perché abbiamo parlato di presa in cura dell'altro, lancerei Ovunque proteggi di Vinicio Capossela. Ciao, alla prossima. Ciao, grazie, ciao. Non dormo, gli occhi aperti per te. Guardo fuori, guardo intorno. Gonfia la strada di polvere e vento nel viale del ritorno. Quando arrivi, quando verrai per me, guarda l'angolo del cielo dove è scritto il tuo nome, è scritto nel ferro del cerchio di un anello. E ancora mi innamora e mi fa sospirare così, adesso e per quando tornerà l'incanto. Trovi stanco, se mi trovi spento, se il meglio è già venuto e non ho saputo tenerlo dentro me. I vecchi già lo sanno il perché, e anche gli alberghi tristi, che troppo è per poco e non basta ancora ed è una volta sola. E ancora proteggi la grazia del mio cuore, adesso e per quando tornerà l'incanto, l'incanto di te, vicino a me. E anche oggi chiudiamo questa settimana di Eduradio con Maria Inglese e ci ridiamo appuntamento però con i laboratori che non vi abbandonano mai, perché tutto il weekend rimangono, e infatti oggi che è venerdì c'è il teatro Rimedi per la distanza con Pietro Floridia, che è stato il nostro ospite di questa settimana, e i Cantieri Meticci. Ma non scordatevi anche sabato con Il Vangelo vicino a te a cura della Cappellania, a seguire la rubrica di teatro Prova a distanza con Paolo Billi al Teatro del Pratello, e poi domenica iniziamo con Note libere di Chiara Gallo, e a seguire il Teatro dell'Argine e il Laboratorio di Cucina a cura di Fomal. Scriveteci liberidentro.eduradio@gmail.com oppure Chiesa Santissima Annunziata, via San Mammolo 2, 40 136 Bologna. E noi, con i buongiorni di Eduradio, ci vediamo sempre lunedì alle ore 9 su Radio Città Fujiko e alle 10.30 su Teletricolore. Ciao e buon weekend!